perché io ho l'obbligo, insomma, credo di, anche a nome del professor Vanduska, che, con cui abbiamo organizzato questo seminario, di, insomma, chiuderlo, no? Ora è logico che io non ho avuto il tempo e neanche la voglia di riflettere, di fare una riflessione organica sui lavori che noi abbiamo avuto questa settimana. E non credo neanche che fosse utile farlo, insomma, perché queste robe qui, insomma, è inutile fare degli sfoggi di capacità sintetiche, quando in realtà questo lavoro per noi è un lavoro che va avanti, seppur saltuariamente, da 4 anni, e allora, e deve ancora forse andare avanti, quindi non c'è motivo di stare a, mi pare, ecco. Nello stesso tempo, il modo come io avevo presentato, aperto i lavori lunedì, confuso, eccetera, era già un programma di lavoro per me, ecco, nel senso che credo davvero che il moderno in Germania e in Italia, cioè l'Ottocento in Germania e in Italia, immagini, modelli e miti tra due popoli, l'Ottocento in Germania e in Italia sia un problema enorme. E noi abbiamo, dopo aver negli anni scorsi studiato di primo acchito l'aspetto più, come dire, marcatamente politico, no? Più emergente dal punto di vista politico di questo Ottocento Faber, insomma, che erano le ideologie, perché noi abbiamo dedicato una serie di seminari a studiare i comportamenti politici in Italia e in Germania tra 8 e 900, no? Quindi abbiamo stato liberali, abbiamo stato cattolici, abbiamo stato socialisti, abbiamo stato nazionalisti, abbiamo fatto tutto un lavoro precedente di questo tipo qui. E allora dopo è venuto il problema di dire, va bene, ma al di sotto di queste facce ideologiche del cubo ottocentesco o del poliedro ottocentesco, no? Del poliedro ottocento, cosa c'è dentro? Insomma, quali sono i materiali, no? Cosa c'è del poliuretano espanso, della gomma piuma, dei pezzi di pietra antica? E allora da qui l'ambizione di cercare di indagare questi contenuti andando a seguire le stesse rubriche, utilizzando le stesse rubriche del creato. Quindi l'antichità, il rinascimento, l'antichità, il medioevo, il rinascimento, e tutto questo poi però alla fine portava al problema del moderno. Il problema del moderno sicuramente in questa doppia faccia che appunto ho presentato lunedì mattina molto vagamente, confusamente, del moderno come età moderna, cioè come i secoli appena trascorsi, a cui però l'Ottocento è strettissimamente legato, come abbiamo visto, ma anche il moderno come parola d'ordine. Parola d'ordine da sbandierare oppure da uccidere, ma comunque parola d'ordine. Quindi questo per dire la logica del nostro ragionamento come Istituto Storico Germanico e anche dove stiamo andando in un certo modo, perché l'Ottocento lo consideriamo, l'abbiamo sempre considerato in tutti questi anni, come il nostro papà, come luogo da cui noi veniamo, quindi da cui noi veniamo anche come storici, è il nostro presente in certa misura, è molto più forse il nostro presente l'Ottocento del Novecento, insomma. Ma comunque questo qui ci porterebbe troppo lontano, ecco. Ora, in questo quadro va visto anche quello che è venuto fuori in questi giorni. Io mi scuso per la farraginosità, no, dell'impianto che abbiamo dato, insomma, al seminario. D'altra parte è comprensibile che non si riesce, insomma, neanche a far tutto. Ecco, potevamo scegliere un campo più limitato e lì essere più completi. Abbiamo preferito scegliere invece un campo meno limitato e di essere più incompleti. Gli stimoli però sono venuti fuori. A me pare, io adesso qui ho una serie di 4-5 schede, che sono però schede solo di osservazioni mie estemporanee, insomma, che mi limito e che non ho neanche in qualche misura forse riletto e riordinato, proprio perché stanotte ho dormito, insomma. stamattina durante l'azione di Ossola era materialmente impossibile pensare ad altro, come invece di solito si fa in queste circostanze, che si usa l'ultima relazione per tirare le fila delle altre, no? non si è potuto fare. Quindi le leggo, ve le recito così, perché, anche perché poi io penso di rifletterci sopra, come ci rifletteremo tutti, e vedremo cosa ne viene fuori. Ecco. Alcuni problemi, ecco. Questo moderno dell'Ottocento certamente è caratterizzato insieme, mi pare, dal problema della rottura con l'età precedente, abbiamo visto ripetutamente, sino poi non sto a citare, non faccio neanche lo sforzo, no, l'esercitazione di collegare le cose che questi appunti che ho preso con chi le ha dette nei giorni scorsi, no? Capirete anche voi, ci sono state relazioni migliori, relazioni peggiori, come sempre, insomma, però tutte hanno portato dei contributi positivi che in qualche misura si incastrano fra di loro, ecco, quindi... Allora, il moderno Ottocento mi pare caratterizzato insieme dalla rottura con l'età precedente, ma anche dall'altro problema che è quello di un proseguimento di linee di continuità. Questo è venuto fuori molto, molto vistosamente, insomma. Anche se queste linee di continuità sono diversamente collocate e diversamente individuabili, innanzitutto nei due paesi, perché questo che forse un po' è mancato di più nei nostri lavori, è stata la comparazione continua, cioè lo sforzo di tenere un po' legate le due realtà, questo sì. Certamente queste linee di continuità, più ancora che il momento della rottura da precedente, sono diversamente collocate e anche quindi, come dire, diversamente individuabili in posti diversi, ma mi pare che però siano omogenee, cioè che la ricerca, il problema, il porre la questione di queste linee di continuità sia omogenea fra le due aree culturali e storiche e che ci siano sostanzialmente anche delle linee di convergenza. Devo dire che tutto, cioè questo dilemma, rottura, continuità, secondo me si spiega essenzialmente in base al mutamento radicale che è non solo qualitativo, ma è soprattutto quantitativo, vorrei sottolineare questo fatto qui, dei soggetti che fra antico regime o regime Ottocento sono interessati a questo problema. Questo mi pare che in fondo è la cosa che è più vistosamente mancata nella costruzione di questo seminario. Un'attenzione, no, alla dinamica sociale. Che è basilare, io penso che questa sarà l'altra ulteriore frontiera a cui noi dovremo dedicare eventualmente in futuro, qui o altrove, attenzione per capire questo problema qui dell'Ottocento e del nostro tempo. Perché non l'abbiamo ancora fatto, abbiamo fatto l'ideologia, abbiamo fatto questa storia della cultura, questa storia della Costituzione in senso là, della Verfasstheit, come diceva ieri Wiedemann, ma non abbiamo sempre lasciato un po' per scontato invece questo dato di fondo che, come dico, è prevalentemente quantitativo, quindi sono poi contento anche che ci sia qui la dottoressa Patriarca, che è un richiamo vivente della necessità di andare a studiare anche questi aspetti qui e anche, devo dire subito, di conseguenza l'attenzione per il fatto economico, insomma, perché anche di questo non abbiamo mai parlato. È vero che sono le cose che, in fondo, di cui, no, quando si parla di modernizzazione, eccetera, eccetera, in fondo si parla di più, si danno quindi più per notte, eccetera, invece forse non è vero, e quindi questo va detto. Ecco, questo è un primo appunto che faccio, una carenza un problema che, appunto, per quel che riguarda questo aspetto, questa duplicità della rottura, della continuità, mi pare che si pone nei confronti della Neuzeit, nei confronti dell'età moderna, dei secoli precedenti, appunto, e insomma, brutalmente detto, è il problema del giudizio, insomma, no? Che si dà in Germania e in Italia, positivo, negativo. Io devo dire che molto banalmente, un anno fa, quando avevamo cominciato a pensare a questo seminario, dicevo, mi pareva di poter dire, in fondo il giudizio sulla Neuzeit è più positivo in Germania che in Italia, perché in Germania i tedeschi nella Neuzeit hanno dei pilastri della loro ottocentità, insomma, no? Hanno Lutero all'inizio di questa Neuzeit, poi hanno l'epopea in fondo degli, della costruzione degli stati territoriali, sia in Austria che in Germania, che nei paesi germanici, cioè tedeschi, e in misura in modo diverso, ma come l'assolutità della creazione dello Stato, l'epopea Hohenzollern, per esempio, per la Prussia, no? Che è così poi importante nella storiografia ottocentesca. Noi non abbiamo potuto poi, in realtà, grazie a Mulla, che abbiamo avuto qualche vaga reminiscenza, ma l'epopea Hohenzollern è fondamentale per capire come mai. Quindi, mentre invece per l'Italia sembrava che il giudizio dovesse essere più negativo, perché invece i secoli bui, i secoli grigi, la decadenza, queste cose. In realtà mi pare che dai lavori che noi abbiamo fatto questa dicotomia così chiara è stata un po' posta in dubbio, perché abbiamo visto che le cose sono molto più sfumate, dipende molto dai punti di vista e anche forse dalle, non solo dalle angolature, ma anche, voglio dire, dal campo proprio di osservazione in cui uno sta, sia un letterato piuttosto che uno scienziato, piuttosto che un filosofo, piuttosto che, non so. Tanto va distinto fra 6 e 700. Abbiamo visto ripetutamente in alcune relazioni è stato dimostrato come sia necessario distinguere fra 6 e 700, almeno. Ma poi invece da altre relazioni si è visto che questa distinzione non sempre va fatta. No? E si è visto che probabilmente è una distinzione che funzionerebbe comunque in modo diverso per i due paesi, per l'Italia e per la Germania, quindi la cosa è molto complessa. Resta comune comunque, cioè mi pare che io ho capito una cosa, che però il punto di partenza, a parte al di là della necessità o meno di distinguere fra 6 e 700 in ordine al giudizio positivo o negativo da dare alla Neuzeit, al di là di questo, mi parebbe di poter dare per accertato un elemento positivo, mi pare, no, dai nostri lavori, che il punto di partenza della Neuzeit, cioè quello che sta prima del 6 del 700, cioè il 500, cioè la seconda metà del 500, tutto sommato però, ecco, è giudicato positivamente sia in Italia che in Germania. In fondo Lutero da una parte, il Rinascimento dall'altra, ma mi pare di avere accertato che da tutti gli interventi è venuto fuori il riconoscimento che però in fondo 500 andava bene. Quindi semmai è dopo che... Però abbiamo visto che tutto sommato anche il 700, anche sul 700 c'è una, mi pare, opinione comune tra Italia e Germania di giudizio positivo. Quindi 500, seconda metà del 500, e il 700, almeno seconda metà, quindi le riforme, il riformismo, no, eccetera, di nuovo torna a essere positiva. Quindi allora il problema, semmai, per quel che riguarda la comparazione fra Italia e Germania in ordine al giudizio positivo o negativo da dare alla Neuzeit, tocca il 600. Ecco, tocca il 600. Non so cosa vuol dire, però è un punto da approfondire, secondo me, no? Mi chiedo se qui il problema non sia tutto sommato stato, non risieda nella offerta che ci ha fatto Mulak nella sua relazione, cioè che in fondo il 600 è più di tutto dal punto di vista storico-politico il momento della costruzione del sistema europeo degli stati, cioè da Grozio alla sì, la Pace di Vestfalia, ma insomma a tutto il 600, al primo 700, mi pare che il problema cruciale sia da collocare sul piano internazionale più che sul piano interno, e quindi allora forse dico, però questo non dice mica molto, bisogna approfondire. Ecco. Un altro tema coinvolto, dopo questo del giudizio positivo o negativo verso la Neuzeit, è venuto fuori anche stamattina in modo molto bello, anche la discussione, eccetera, il discorso del contrasto fra diciamo così, una concezione conservativa e una concezione progressiva. Anche su questo non ci siamo soffermati molto, non ci sono state, invece è radicale questa cosa, attraversa, no, anche Moretti ha fatto vedere bene già all'inizio dell'Ottocento, insomma, credo che sia una diversificazione non superficiale questa. Quindi anche questo qui bisognerebbe approfondirla con tutti i corollari del moderno nella duplice accezione appunto di naturale, di artificiale, quindi certo, è chiaro che viene fuori progressivamente qui, secondo me, un altro problema di periodizzazione, ma adesso li vedremo rapidamente tutti, che è quello di considerare necessariamente, secondo me, l'Ottocento come finito, come risultato come finito verso gli anni 70. Quindi ha fatto benissimo Ossola, secondo me, a fare la parte precedente rispetto alla parte finale, perché la parte finale, secondo me, scarta. Però è importante anche questo fatto qui, che noi abbiamo, secondo me, accertato che quando si parla di Ottocento, questo Ottocento, appunto, questo cubo, questo poliedro, che c'erano tante robe, probabilmente un Ottocento che dobbiamo considerare concluso verso gli anni, insomma, 70, 80, non saprei dire, ci sono state alcune proposte diversificate, no? Però i riferimenti sono stati quasi tutti di tipo politico, mentre invece forse ce ne sono anche degli altri da fare. Certo, per esempio, un punto cruciale che riprende tantissime suggestioni che sono venute da tutte le relazioni, ivi compresa anche una reiteratissima, forse il filo conduttore, anzi, la conclusione stessa della relazione di Ossola di stamattina, è il problema dell'imperialismo, perché è logico che tutto quello che abbiamo sentito dire sull'imperialismo nei giorni scorsi, così insistentemente richiamato da Giarrizzo, ma che poi era dentro in tutte le relazioni, insomma, abbiamo visto quelle anche carattere più politico, eccetera, e il problema dell'imperialismo è esattamente, mi parrebbe, la risposta, l'altra faccia, non so come dire, di questa Europa malata e decadente, no? Che però in fondo riesce a scatenare come ultimissimo momento di forse di vitalità una operazione straordinaria che dura quel che dura, perché dura almeno 70 anni, insomma, e che è l'epopea imperialistica, no? Con tutte le conseguenze che poi ci sono state a diversissimi livelli, perché non è solo un imperialismo economico, non è solo un imperialismo militare, è anche un imperialismo culturale molto importante, che io ritengo vada anche, insomma, appunto, riqualificato. Ecco, quindi in questo senso il problema dell'imperialismo è un problema che anche questo è venuto fuori, che mi pare potrebbe forse, anche nella sua cronologia elastica, insomma, che ha, rappresentare il termine ad quem di questo Ottocento che noi vogliamo studiare. C'è comunque inevitabilmente un problema di periodizzazione. Abbiamo visto che la periodizzazione, antica polemica, insomma, però la periodizzazione rimane uno degli strumenti fondamentali di operazione, di aiuto, di intervento per lo storico, insomma, non puoi sfuggire. Io purtroppo essendo dotato di una, cioè avendo questa straordinaria incapacità di memoria, ho come spero sempre, insomma, che si riesca a superare questo problema della periodizzazione, di ricordare i nomi, quello lì, invece no, sembra proprio che lo storico debba fare queste cose. Ecco. E allora di nuovo siamo lì, abbiamo visto adesso il termine ad quem, agli 80, ma preferirei, appunto, per questo mio preferire la concettuologia, la cronologia, indicare l'imperialismo come momento. Termine a quo, ecco, sul termine a quo abbiamo avuto veramente dei pasticci, no? La rivoluzione francese, ma quale rivoluzione francese? Poi abbiamo visto tutte le sottili distinzioni, giustissime, sacrosante, di Giarrizzo, no? Insomma, quanti giacobinismi ci sono? È l'89, è il 93, oppure è Napoleone, oppure è Napoleone che cade, È uno spettro molto, molto ampio. Anche se poi complessivamente sono, insomma, 20, è un quarto di secolo, insomma, in cui si gioca tutto, però è uno spettro molto ampio, soprattutto dal punto di vista dei significati, perché dall'89 alla Corte di Napoleone c'è dentro tutto, insomma, c'è dentro tutto il possibile che l'antico regime può dare, tutte le diverse soluzioni che la straordinaria vicenda dell'età moderna poteva dare sono dentro e presentate come carte successive sul tavolo dai francesi, poi sostanzialmente. In questo quarto di secolo. Ecco. Ma poi non solo, perché l'Ottocento era uno dei due termini del nostro discorso, quindi periodizzazione dell'Ottocento, ma periodizzazione della Noizia, che era l'altro termine del nostro discorso. L'Ottocento è l'età moderna. E di qui di nuovo, come il termine ad quem torna a essere la rivoluzione francese, per la Noizia, ma per la Germania il punto è più dubbio, e il termine di partenza, di nuovo, era metà del 500. Il 1555 è stato detto dai tedeschi, il 1566 è stato detto dagli italiani, comunque questo momento qui, non lo so, riprenderei quel che ho detto prima, che tuttavia per questa prima metà del 500, per questo punto di partenza, seconda metà del 500, in maniera abbastanza stupefacente abbiamo visto che l'interpretazione, l'atteggiamento di fondo sembra comune tra mondo italiano e tedesco, cioè un atteggiamento positivo. Rispetto a tutto ciò, come giocano i nostri concetti di partenza, rispetto a questa periodizzazione? Per il Settecento è questo discorso molto inquietante. Riforma, cioè riformismo, le riforme, no? Amministrative, insomma, o rivoluzione. Anche l'abbiamo trovato continuamente ricorrente nel richiamo che l'Ottocento fa di questa cosa. E per l'Ottocento, o a metà tra 7 e 800, di nuovo l'alternativa, purtroppo non approfondita, tra popolo, folk, mille maniere, no? E proletariato, parola che non è mai stata usata in questi giorni, no? E proletariato, che però si rifà all'osservazione che aveva fatto in partenza, cioè la necessità di invece riaprire tutto il versante della, a me non piace chiamare la storia sociale, dell'attenzione per l'aspetto sociale, insomma, no? Della mobilità sociale, della trasformazione sociale. E in mezzo tra popolo e proletariato, quel pöbel tedesco. E allora ricordiamo, perché io ero partito con Brunner di mattina, e in quello splendido libretto lì, curato da Conze pubblica proprio un saggio curato vom Pöbel zum Proletariat. Questo qui è decisivo, secondo me, cioè riconosco in modo totale, insomma, che se non si afferra questo problema non si può capire che cosa cambia, insomma, fra 7 e 800, perché poi giustamente anche mi ricordo bellissimo intervento che aveva fatto Ossola su forse Corsini, cioè in primo 800 noi abbiamo dei tizi i quali vogliono realizzare, no, progetti e ideali settecenteschi, ma si accorgono che per realizzare progetti e ideali di riforma educativa, che so io, settecenteschi, devono riandare a strumentazioni, a strumenti, a testi, forse anche a istituzioni, sarebbe interessante vederlo, seicentesca, come mai? Perché è saltata l'unità di classe, diciamo così, cioè gli ideali settecenteschi che si vogliono realizzare nell'Ottocento non sono più quelli di un'elite ristretta di illuminati, ma sono invece quelli veri o presunti di un popolo, che cos'è poi? È la borghesia o è il pöbel o sta per divenire proletariato? E allora gli strumenti del Settecento non servono più, bisogna andare a quelli, guarda caso, un po' assolutisti o disciplinanti comunque, che il Seicento aveva già abbondantemente prodotto, questo Seicento che invece sembrava dalla ricostruzione, invece dalla lettura, perché adesso entro un po' in polemica, insomma, anche di Mannori, eccetera, che non avesse avuto mai questa attenzione di tipo accentuativo e così via. Tutto quindi in questione. Ultimissime due parole, mi date pazienza, ma sono proprio due, no? Appunto, l'ho già detto, questo qui, economia e società, e quindi va bene. Insisto però che è risultato decisivo dai nostri lavori il salto sociale che tra 7 e 800 si può. Quindi questo qui bisogna, dall'elite al popolo, e il popolo nelle sue diverse possibili, i suoi diversi possibili significati, questo è assolutamente da viene fuori però un'altra questione decisiva, insomma decisivissima, che tutti quanti abbiamo trovato, insomma, no? Che tutti quanti abbiamo trovato ieri mattina in Wiedemann, abbiamo trovato ieri pomeriggio intensamente presentata da Camaiani, proprio come clou della sua, il problema dell'individuo, libertà, coscienza, cultura. Perché di questo non abbiamo parlato, l'Ottocento è il secolo della storia, abbiamo detto il secolo della scienza, è il secolo dell'individuo anche, o no? È il secolo liberale, in questo senso qui, o no? Quindi, questo è estremamente importante. La lettura dell'antico regime che si fa nell'Ottocento, che fa Manzoni nell'Ottocento, no? Quindi, la lettura, la presentazione di un antico regime appunto spezzettato, sminuzzato, morcellato, no? Morselé, consociativo, diciamo noi giuristi, o se no corporativo, clientelare, tutti i termini che tu hai snocciolato ieri. Ma questa lettura dell'Ottocento, forse così, quindi trascurando l'aspetto invece importantissimo di costruzione della burocrazia, dell'esercito stabile, del fisco, sono robe mostruose, no? Questa lettura invece faziosa, insomma, non è forse proprio per far risaltare l'individuo, perché l'individuo, la vecchia tesi appunto da Hobbesiana, ma anche dell'interpretazione poi schmittiana, cosiddettiana, eccetera, la più diffusa, è che l'individuo è molto più garantito come individuo dalla presenza di uno Stato forte, di uno Stato strutturato, che non dalla presenza di una società per ceti, di una società per corpi, perché nel corpo l'individuo non esiste, scompare, mentre invece di fronte a uno Stato amministrativo l'individuo ha la sua coscienza, no? L'interpretazione di Coselli, che in critica un crisi, è tutto in questo senso qui, di Hobbes. Allora, questo è un altro problema importante, l'individuo c'è, insomma, stamattina l'abbiamo visto ancora ripetutamente, secondo me, nella lezione di Hobbes, e lo Stato allora scompare, è il grande assente, paradossalmente, al di là, contro ogni mia aspettativa, il grande assente di questo seminario è stato lo Stato, non se ne è quasi mai parlato, no? L'Ottocento storiografico sembra, io ho dei dubbi su questo punto qui, sono molto ignorante, ma Moretti poi basta chiederglielo, che senz'altro lo sa, ma dico, non è, noi non abbiamo mai parlato della lettura che è stata fatta nell'Ottocento dell'assolutismo moderno, dell'età moderna. Questo è un buco, insomma, no? Che è rimasto. Però abbiamo parlato spesso, a partire dalla ottima relazione di Vandruska all'inizio, e poi ripetutamente già Rizzo ha richiamato molto l'attenzione, io stesso, eccetera, non dell'assolutismo, ma della monarchia amministrativa. Abbiamo visto come il richiamo all'amministrazione, alla centralizzazione amministrativa nel corso dell'Ottocento è un elemento importante per ricollegarsi all'età moderna e per dare giudizi positivi o negativi sull'età moderna, no? Essenzialmente positivi per il Settecento riformista, nella direzione della monarchia amministrativa, ma noi sappiamo che il Settecento riformistico non ci può essere, l'assolutismo è illuminato perché prima c'è stato l'assolutismo, altrimenti non può mica illuminarsi. E quindi questo del discorso della monarchia amministrativa è estremamente importante, però stiamo attenti che il discorso della monarchia amministrativa è il discorso che ha appena fatto l'Ilaria Porciani sulla base di quel che ci ha presentato stamattina Ossola, cioè incivilimento uguale indebolimento. Tocqueville ce lo dice apertamente, ci scrive sopra un libro enorme che è La democrazia in America, in fondo. E poi arriverà Weber, no? Che non a caso è un uomo dell'Ottocento, eccetera, eccetera, inutile. Cioè, e ieri in Wiedemann era molto chiaro questo discorso qui, cioè l'individuo, la coscienza dell'individuo, la Selbstzucht, l'autodisciplina dell'individuo, l'autoformazione della Selbstbildung, quindi l'individuo al centro che si fa da solo, eccetera, eccetera, ma negli internati, in scuola e caserma. E come fa? Perché c'è lo Stato in mezzo che fa questo. Ma che Stato è? È uno Stato che non conta, che non c'entra, che non ha interesse, cioè che non è lo Stato etico. Lo Stato etico non c'è. Lo Stato etico, secondo me, ha una scarsissima presenza nella teoria e nella prassi politica, anche tedesca dell'Ottocento. Non è vero che Hegel è stato quello che ha rovinato la Germania, che poi è venuto Hitler e quelle storie lì. Non è affatto vero. Lo Stato tedesco è lo Stato di Fichte, cioè uno Stato potentissimo ma che non c'è. E qui sta la questione. Perché quando questo Stato potentissimo ma che non c'è, di cui i cittadini non si occupano, perché non è un problema etico, va in crisi, allora c'è il crollo. Perché se fosse uno Stato etico, i cittadini vi parteciperebbero, e quando lo Stato andasse in crisi, non vi sarebbe il crollo, perché essi porterebbero la responsabilità di quella crisi e vi saprebbero porre rimedio. È esattamente l'opposto di quello che succede in Germania nel 18, e da prima, e dalla fine. Quindi di Betrachtungen eines Unpolitischen, da Untertan, ma insomma questo qui adesso mi sto scattando troppo e dobbiamo andare a mangiare, ma insomma anche questo qui mi sembrava un problema. Ecco, tutto questo discorso in fondo io pensavo venisse fuori molto lo Stato, invece non è venuto fuori, è venuto fuori da una parte la monarchia amministrativa, dall'altra parte il sistema europeo degli Stati, cioè due neutralizzazioni, in basso, diciamo così, e in alto, del problema cruciale che invece è quello del potere, no? Che anche Giarrizzo ripetutamente ha... Scusate la confusione, insomma, ecco, ma... Dopo, certamente, io sono stato molto contento che stamattina Orsola abbia, seppur così fugacemente, utilizzando De Santis, richiamato Vico. Io speravo di poter avere... Qui è mancata un'altra cosa, è mancata quasi del tutto la considerazione, diciamo così, della filosofia, se si vuole andare per settori, no? Io avrei voluto mettersi anche quella, ma già è venuto fare un casino in questo modo, figuratevi cosa succedeva se riempivamo ulteriormente. Certo, Vico è, insomma, è inutile neanche dire niente di più. Ecco. La conclusione di queste conclusioni, di queste osservazioni mie, va addirittura ancora di più al titolo generale, complessivo della nostra serie di seminari, perché riguarda un problema molto forte che ha posto soprattutto ieri mattina Wiedemann, che secondo me ha fatto un'ottima relazione, e che ha ripreso stamattina anche Ossola, e che aveva posto anche ieri Camaiani, che dimostra che questa prospettiva storico-letteraria è fondamentale per valutare problemi di storia, non solo della mentalità, ma secondo me anche costituzionale, di un popolo, tra virgolette, come è il soggetto che ci interessa nell'Ottocento, cioè il problema del mito. Perché giustamente Wiedemann ieri ha detto il moderno sta tra un'operazione di demitologizzazione e una operazione di rimitologizzazione. Questo qui è, mi pare, insomma, anche se sembra un po' un gioco di parole, il risultato di fondo del nostro seminario, il che naturalmente coinvolge un aspetto, diciamo, metodologico fondamentale, su cui poi potremmo naturalmente aprire, che è il ruolo che consapevolmente o meno svolge il mito nel lavoro, nel mestiere dello storico, per dire più pomposamente, in quella che l'Ottocento ha chiamato la scienza storica. Chiedo grazie a tutti, cioè chiedo scusa a tutti e ringrazio invece anche tutti. Per noi è stato bello, insomma, anche se molto faticoso. Speriamo, adesso noi pubblicheremo questi atti, non so bene quali siano i tempi, ma il fine anno, gennaio, quindi gli autori riceveranno una lettera presto, perché a fine gennaio mandino, insomma, il loro coso. Noi pubblicheremo in quella, speriamo di continuare, insomma, il Signore ci dia vita, ecco, a continuare quella serie lì, che abbiamo inaugurato col Migliore dell'Ottocento, a cui io sono molto affezionato, perché c'è anche Don Contù, insomma, eccetera, e basta, insomma, grazie.